Terra in vista. Le Olimpiadi spiegate a mio figlio. Bene tornati a Terra in vista da Federico Daddia e il filosofo della scienza Telmo Pievani. Ciao Telmo. Ciao, bentornato. In questa estate dove stiamo raccontando le Olimpiadi da un punto di vista un po' particolare, perché prendiamo tante parole per raccontare quello che è lo sport, che vuol dire anche raccontare la vita, lo facciamo parlando ai nostri giovani ascoltatori. La parola di oggi è una parola che a volte fa paura, ma è una parola che abbiamo assolutamente voluto raccontare, ed è la parola disabilità. Perché? Perché fa parte delle Olimpiadi, fa parte dei giochi. A Rio dal 7 al 18 settembre ci saranno i giochi paralimpici, che insomma sono una bellissima, bellissima manifestazione, tantissimi atleti, tanto sport, tante medaglie anche lì. Oggi andremo un po' a raccontare cosa significa. I giochi ricominciano, esatto, si sono conclusi i primi giochi, adesso ci sono i secondi giochi, un mesetto di qualche settimana insomma di differenza, ma si riparte, ancora gare, ancora brividi, ancora esultanze, ancora lacrime, perché i giochi, lo abbiamo visto, vincere ma è anche perdere. Ma cosa significa disabilità? Beh, partiamo da quella che è l'idea dei nostri giovani ascoltatori. Yuhu! Una persona disabile quando una non riesce a fare delle cose. È uno tipo che ha una gamba finta, oppure che va in carrozzina. Tutte queste cose. Una disabilità è una cosa che non riesci oppure non sei mai riuscito a fare, però in alcuni casi non è detto che non ci riuscirai mai. Credo che sia una persona che ha bisogno di aiuto per camminare, sì, quando tipo sta con il bastone oppure viene aiutato da una persona più giovane. I disabili sono fortissimi perché hanno qualcosa in più di noi. È una persona che non fa delle cose. Si riconosce da se ha qualche problema, se ha la carrozzina, se non ha una mano. Comunque può giocare lo stesso a fare qualche sport. Certo, può essere un campione. Certo, può essere un campione. Oggi conosceremo anche dei campioni disabili. Ma Telmo, è questo, è non riuscire a fare qualcosa, la disabilità, come hanno detto con tanta spontaneità. Però hai visto che la spontaneità dei bimbi, non riescono a fare le cose, hanno bisogno di aiuto, hanno problemi, però sono anche fortissimi, possono essere dei campioni, possono comunque giocare. Quindi hanno colto questo doppio significato. Io la vedrei così: disabilità, se ci pensi, ha una qualche parentela con diversità. Prova a guardarla da un punto di vista evolutivo. Se tu guardi l'evoluzione umana, c'è una caratteristica fondamentale che vedi quando noi siamo diventati umani, che abbiamo imparato a difendere gli individui più deboli. I bambini, per esempio, noi abbiamo una storia in cui siamo diventati, siamo cresciuti sempre più lentamente, quindi abbiamo avuto dei gruppi umani con sempre più bambini e adolescenti in mezzo al gruppo, che avevano bisogno di essere protetti perché erano fragili, dipendenti dagli adulti. E poi una cosa fantastica è stata scoperta da poco: si è visto che quando inizia il genere Homo, tu vedi nei reperti archeologici che ci sono degli anziani, ci sono degli individui morti vecchi, morti senza denti. E questa è una cosa che sembra insignificante, invece vuol dire una cosa importante, vuol dire che ci sono degli individui che sono invecchiati e che sono stati alimentati, aiutati dal resto del gruppo a mangiare anche se non avevano i denti, e quindi sono morti dopo tanti anni senza denti. Questo in natura non sarebbe possibile. Quindi vedi che l'umanità consiste nel fatto che tu allarghi lo spettro di quelli che possono sopravvivere a molti più individui, e quindi, se ci pensi, hai aumentato la diversità. Qualcuno storce il naso quando si dice diversamente abili, sì, perché dice ah, ma è politically correct, tanto è vero che si scherzano, diversamente giovani, diversamente maschi, però in realtà c'è qualcosa di vero letteralmente, perché queste persone sono diversamente abili, nel senso che hanno imparato ad utilizzare le loro risorse in maniera diversa dagli altri. Infatti i giochi paralimpici non sono giochi più scadenti, giochi di serie B, giochi dove le medaglie valgono meno, sono giochi diversi semplicemente. Non sono olimpiadi minori, ma sono un'altra cosa, esatto. Oggi quindi andremo a giocarli questi giochi, come sempre lo faremo attraverso le piccole domande dei nostri giovani ascoltatori, avremo grandi risposte, avremo dei protagonisti dei giochi paralimpici e andremo a dare il giusto significato alla parola disabilità. E poi, come sempre, le nostre rubriche, la scienza, le animaliadi e non battere la fiaccola, le nostre curiosità che abbiamo così spulciato dalla storia dei giochi a cinque cerchi. Partiamo proprio da qui, non battere la fiaccola, il traffico e poi terra in vista. Non batter la fiaccola, curiosità a cinque cerchi. Ai giochi di Montreal nel 1976, la 14enne romena Nadia Comaneci, 39 kg distribuiti in 1,56 m, vince 3 ori. L'atleta riceve dai giudici 4-10, cioè il punteggio della perfezione, eseguendo salti totalmente sconosciuti su una trave di pochi centimetri di lunghezza. La Comaneci diventa così la star dei giochi canadesi, al punto che ogni volta che gareggia il pubblico impazzisce alle sue esibizioni. Nella giornata finale entra all'improvviso nel forum la regina Elisabetta, ma Nadia sta gareggiando e perciò nessuno si accorge dell'arrivo di Sua Maestà. Una giornalista della televisione canadese in quell'occasione commentò: «Una volta tanto, la regina non è Elisabetta, ma Nadia». Terra in vista. Eccoci qui, terra in vista, le Olimpiadi, spiegate a mio figlio. La parola di oggi quindi è disabilità. Partiamo con la prima domanda del nostro giovane ascoltatore. Yuhu! Che cos'è un handicap? Domanda secca, domanda diretta, come sempre fanno i bambini, e tentiamo di spiegare che cos'è un handicap. Lo facciamo con un artista. Abbiamo il piacere di avere con noi una ballerina e pittrice. Diamo il benvenuto a Simona Azzori. Ciao Simona. Ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ciao. Allora Simona, priva di braccia sin dalla nascita, ma questo non le ha impedito di seguire le proprie passioni, in particolare la pittura e la danza. Simona, che cos'è un handicap? Insomma, viene quasi naturale chiederlo a te, perché insomma è una dimensione che ben conosci. Si riesce a spiegare a un'altra persona che cos'è un handicap? Ma sicuramente, secondo me, non so se si riesca davvero a spiegare, perché io penso che sia un po' qualcosa che è nella nostra mente, nel senso che tutti quanti noi abbiamo qualcosa di diverso dagli altri, e definirlo in qualche modo lo limita. Quindi io forse ad un bambino, più che dire che cos'è qualcosa che limita, racconterei quello che si può fare in modi diversi. Quindi io spesso ai bambini racconto che non ho le mani, non ho le braccia, però ho due piedi che sono magici, perché fanno tutto quello che fanno le mani. E come una volta proprio una bimba mi disse: Simona, non è vero che non hai le mani, ma hai le mani in basso. E quindi da lì questa definizione è entrata a far parte della mia vita, per definire ciò che si ha invece di andare a spiegare, a guardare quello che non c'è. Perché è veramente a volte nella testa delle persone che hai davanti il vero handicap, no? C'è paura di dire la parola sbagliata, c'è timore di fare il gesto sbagliato. Assolutamente sì, tante persone hanno paura di darmi la mano, ma vuol dire, non c'è niente di male. Io ne ho ricevute di mani talmente tante che neanche le ricordo, no? Invece la persona che fa, tra virgolette, questo gesto pensando poi di far qualcosa che non deve all'altra persona, se lo ricorderà sempre. E invece io penso che la dimensione della semplicità, del guardare agli altri con quello appunto che hanno o che non hanno, sia la cosa più importante. Invece a volte ci fissiamo sulle definizioni, nomi, paure, e tutto potrebbe essere molto molto più semplice. Ci vuole un po' di abitudine a questo. Simona, volevo chiederti, quello che ci raccontavi adesso di quello che tu riesci a fare senza le mani fa capire che in fondo noi, ma tutti noi, siamo ciascuno diverso, come dicevi tu, però forse abbiamo anche delle potenzialità nascoste, nel senso che chi non ha incontrato questa situazione non sperimenterà mai delle potenzialità che in realtà abbiamo tutti, che ha dentro di sé, o no? Assolutamente vero, infatti io dico sempre che non sono Wonder Woman, nel senso che uso i piedi come le mani, perché appunto non avendo le mani la natura mi ha permesso di scoprire che anche un paio di piedi possono fare delle cose che di solito non fanno, e questo l'ho potuto fare io perché appunto sono stata tra virgolette obbligata, però è la potenzialità di tutti quanti, cioè di ognuno di noi, quindi anche pensare che abbiamo due piedi che anziché solo portarci in giro in realtà potrebbero permetterci di fare molto di più, ci fa capire quanto di poco sfruttiamo le nostre abilità, non solo del corpo ma soprattutto della nostra mente. Quindi io inviterei le persone a vedere il limite in realtà come la vera e propria possibilità di andare a guardare cosa c'è dopo. Allora solo così davvero possiamo imparare tutti insieme a vederla come una ricchezza. Simonarte.com è il sito di Simona, oppure insomma cliccate Simona Azzori su Facebook, su YouTube per vederla in azione, i suoi libri, Cosa ti manca per essere felice, Dopo di te, entrambi editi da Mondadori, per conoscere la sua storia, la sua testa, le sue passioni. Simona, quando io ti vedo ballare mi sento io disabile, perché insomma mai saprei fare quelle cose. La parola disabilità è una parola che ti piace, che senti tua, che senti utile? Ma io non sono molto per le parole che definiscono, per le etichette. Io chiedo solamente quando mi vengono appunto chieste questa domanda sulla disabilità, invito le persone a porci prima la parola persona con disabilità, perché non mi piace quando si definiscono gli altri per qualcosa che c'è in meno o che c'è di diverso. Quindi aggiungendo semplicemente la parola più semplice, più naturale, più normale possibile, che è perché tutti quanti noi siamo persone, allora dopo mi va bene tutto. Però dare valore alla persona per me è la prima cosa. E questo è fondamentale. Grazie davvero Simona, buona estate. E, insomma, abbiamo già detto, sei in giro con i tuoi spettacoli, insomma, quindi che sia un'estate di soddisfazione e di divertimento. Grazie, buone vacanze a tutti voi. Grazie a te, ciao. Non batter la fiaccola, curiosità a 5 cerchi. Tommy Thompson è stato un atleta canadese, vincitore della medaglia d'oro nei 110 metri ostacoli alle Olimpiadi di Anversa del 1920. Con questa vittoria, Thompson riesce a battere il record mondiale in vigore fino ad allora con 14 secondi e 8 decimi. Volete sapere come ha fatto ad essere così bravo? Le cronache dell'epoca riferiscono che Thompson si facesse bendare prima dell'allenamento e che fosse così ad occhi chiusi capace di raggiungere il traguardo senza far cadere neppure un ostacolo. Non battere la fiaccola. E poi i racconti di Telmo Piovani. Telmo, la parola disabilità cosa ti ha suggerito? Beh, mi ha suggerito innanzitutto che potremmo ricordare a tutti come sono nate, come è nata questa idea delle Paralimpiadi. Mm-hmm. Nasce nel secondo dopoguerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale, in Inghilterra, quando un medico decide di mettere insieme i veterani di guerra, che avevano naturalmente mutilazioni, danni alla colonna vertebrale molto seri, e di far fare loro dei giochi, dei reduci. Questa è un'iniziativa, ha un grande successo, inizia nel 48, va avanti, però pensa che le prime Olimpiadi in cui ci sono state poi affiancate le Paralimpiadi sono state in Italia, quella di Roma nel 1960, grazie a un medico italiano che si chiamava Antonio Maglio, che era il capo della federazione dei paraplegici italiani, e che decise di affiancare le Olimpiadi. E da lì in poi l'idea ha avuto grande successo, e nel 2001, quindi qualche anno fa, è stata ufficializzata, quindi d'ora in poi sempre ci saranno le Paralimpiadi. Ma è anche bello ricordare che è successo tante volte che delle persone con disabilità, come abbiamo detto, dobbiamo definire, come suggeriva Simona, hanno partecipato alle Olimpiadi, quelle le prime che si fanno, quelle sì, in agosto. Tutti ricordiamo Pistorius, uh-huh, Oscar Pistorius, che prima di diventare noto per fatti molto più brutti di sangue, in realtà aveva partecipato alle Olimpiadi di Londra del 2012 e ha corso i 400 metri e anche la staffetta 4x400 con quelle sue due gambe in fibra di carbonio composito, leggere, ultra resistenti, molto, molto particolari, ce le ricordiamo tutte. E pensa che la Federazione di Atletica Internazionale fu incerta per un po' se farlo gareggiare davvero con i normodotati, perché si pensava che avesse un vantaggio eccessivo con queste gambe di carbonio, poi in realtà si è visto che non era così. Ci sono anche delle atlete italiane molto importanti che hanno gareggiato anche nelle Olimpiadi, come Paola Fantato, che è un'arciera. Capita spesso che delle arciere o arcieri paraplegici partecipino con ottimi risultati. Però secondo me la storia più incredibile e più bella è quella di Nathalie, che è una nuotatrice sudafricana che ha perso la gamba sinistra in un incidente giovanissima a 17 anni, ha vinto di tutto, medaglie su medaglie nei giochi del Commonwealth, nei giochi panafricani, ha vinto 10 medaglie d'oro nelle Paralimpiadi, però ha giocato anche a Pechino 2008 e ha gareggiato nella 10 km di nuoto di fondo, quindi fantastica Nathalie. Queste sono le storie di Telmo Piovani, adesso è il momento invece di giocare con gli animali. Animaliadi, record bestiali a 5 cerchi. La nostra giudice di gara è Caterina Spiezio, responsabile settore ricerca e conservazione Parco Natura Viva di Pastrengo, Verona. Parconaturaviva.it, il sito per vedere tantissimi animali dal vivo, animali che noi mettiamo in ogni puntata sul podio. Ciao Caterina. Ciao Caterina. Ciao, buongiorno. Allora, oggi ci prendiamo a cazzotti, vero? Sì, oggi saliamo sul ring. È infatti il pugilato la disciplina che abbiamo scelto e daremo, come sempre, le tre medaglie. Medaglia di bronzo a chi? Medaglia di bronzo alle lepri, perché ogni primavera le lepri si cimentano in una competizione di box dove la femmina utilizza questa modalità, quindi si posiziona sulle gambe posteriori e inizia a prendere a pugni i maschi che vogliono accoppiarsi con lei, e il maschio più resistente viene scelto poi per l'accoppiamento. Ah, hai capito? Succede qualche volta anche negli umani questa cosa. Sì. Quindi proprio si picchiano. Con gli arti anteriori si danno pugni e lei combatte con diversi maschi fino a quando poi non trova quello adeguato. Perfetto, quindi medaglia di bronzo alle lepri. L'argento invece? L'argento va al canguro ed è la seconda medaglia per il canguro in queste animaliadi, perché la prima l'aveva vinta per il salto in lungo. D'argento anche quella? Sì, l'argento anche quella, e la seconda per il pugilato. E in questo caso sono i maschi a combattere tra di loro, quindi anche in questo caso abbiamo la postura bipede che il canguro ha spesso come modalità, e combatte con gli altri maschi spesso per il partner e per il territorio, e c'è un vero e proprio incontro di box. La particolarità di questo combattimento è che il canguro ha un aiuto ulteriore che è la coda, per cui può afferrare poi a un certo punto anche dei colpi con i piedi, quindi andiamo a wrestling forse probabilmente, sì. E siccome non riesce a muovere in maniera alternata i piedi, sferra proprio colpi con entrambe le zampe posteriori, e quindi riesce ad ottenere degli ottimi KO dell'avversario. Ricordiamo a chi sta andando in vacanze in Australia che non è buona cosa affrontare un canguro. Ma sì, perché comunque si allena contro l'umano, capito? Assolutamente sì. Quindi l'argento ai canguri, e l'oro invece, chi è il pugile nel mondo animale? Il pugile nel mondo animale per eccellenza è questa cannocchia pavone, che è un crostaceo di acqua salata. E perché nel pugilato, come si sa, non conta soltanto la forza, ma anche la velocità. Per cui riesce con queste sue appendici, che sono delle vere e proprie clave, di solo 5 mm di dimensioni, riesce a sferrare dei colpi molto veloci, 23 metri al secondo, per rompere qualsiasi cosa, ovviamente principalmente le prede, perché mangia molluschi, crostacei, lumache di mare e anche dei pesci, e rompe sistematicamente gusci e tutto ciò che le impedisce poi di arrivare alla preda vera e propria. E giusto per comprendere un po' come può essere la forza, riesce a rompere il vetro di un acquario di casa. Fantastico. Quindi non puoi tenerli in casa questo. Fantastico. Meglio di no. Sto pensando alla cannocchia pavone contro il canguro, questo ring. Non si accorge niente, il canguro è troppo veloce. Bellissimo anche questo podio, bronzo, argento e oro sulle nostre animaliadi. Grazie come sempre a Caterina Spiezio. Ci sentiamo la prossima settimana per l'ultima puntata, per l'ultimo podio. Ciao Caterina. Grazie a voi. Grazie, ciao. Parconaturaviva.it, vi ricordo come sempre il sito per avere tutte le informazioni. Adesso ci fermiamo, la pubblicità poi ancora qua con Terra in Vista. Dalla Brexit all'immigrazione dall'Europa alla Cina, dall'Iraq a Molenbeek, tutti i temi più caldi dell'estate in un'ora di grande attualità internazionale. E poi le analisi e i racconti dei grandi eventi del nostro tempo. Risorse e materie prime, ambiente, cultura, letteratura, religione, al di là degli stereotipi e senza censure. Voi andate pure in vacanza, il mondo ve lo raccontiamo noi. Sono Giampaolo Musumeci, anche quest'anno, zaino in spalla, ho viaggiato e indagato storie e fenomeni. Ora riaccendo il microfono per raccontarveli. Se anche voi pensate che nessun luogo è lontano, vi aspetto tutti i giorni alle 16, qui su Radio 24. Anna, lo senti questo clima estivo? Il sole, il mare, la montagna, le città d'arte. Ma allora torna Globetrotter 24? Sì, Valeria, torniamo. E in una versione tutta rinnovata, con ospiti fissi e destinazioni interessanti e, speriamo, poco scontate. Non vuoi anticiparmi nient'altro? Posso solo dirti che i nostri compagni di viaggio sono Salvatore Carrubba e Davide Paolini. Allora dimmi almeno a che ora è l'appuntamento. Ogni sabato e ogni domenica alle 10.30, ovviamente, su Radio 24. Terra in Vista. Federico Taddia, Telmo Pievani, questa è Terra in Vista, le Olimpiadi spiegate a mio figlio. Ogni puntata una parola, la parola di oggi è disabilità e poi ci sono le domande dei più piccoli e le risposte dei più grandi. Domande tipo questa. Perché ci sono i giochi per i disabili? Abbiamo spiegato che cos'è un handicap, prima abbiamo fatto una piccola storia anche dei giochi paralimpici insieme a Telmo e adesso andiamo a capire però perché sono così importanti e per farlo abbiamo il piacere di avere con noi il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, anche lui atleta perché ha partecipato a ben 4 edizioni di giochi paralimpici. Diamo il benvenuto a Luca Pancalli. Buongiorno Luca. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Ha vinto anche delle medaglie, vero? Qualcosina sì. Non amo parlare di me né tantomeno dei miei risultati, sì. Ormai fanno parte della storia. Sì, sì, però credo sia una bella collezione di medaglie. Leggevo 8 ori, 6 argenti, un bronzo. Il più medagliato. Il più medagliato, sì. Sì. Allora Luca, perché ci sono i giochi per i disabili? Qual è l'importanza di questa manifestazione? Ci sono perché servono a dimostrare che una persona disabile, un ragazzo, una ragazza disabile, se messi nelle condizioni di esprimere le proprie abilità residue, riescono a fare delle cose straordinarie, aiutando a diffondere un'idea e un'immagine della disabilità completamente diversa da quella che normalmente siamo abituati ad avere. Mm-hmm. Un atleta paralimpico quando è in pista è un atleta, giusto? Un atleta paralimpico quando è in pista è un atleta, come tutti sono straordinari atleti quelli che adesso avranno la fortuna di partecipare alle Paralimpiadi da ogni parte del mondo, ma soprattutto è un ragazzo che insomma ha trovato il modo di esprimere al massimo le proprie potenzialità perché qualcosa si è adattato a lui e non viceversa. Un po' come dire il significato di quello che noi vorremmo avvenisse tutti i giorni nella quotidianità nel nostro paese, cioè il fatto, la dimostrazione che qualcosa deve adattarsi rispetto alle difficoltà delle persone disabili, dimostrando che la persona disabile una volta che si è adattato qualcosa per lui diventa una persona sostanzialmente abile ma con qualche differenza, quindi la valorizzazione delle differenze. Beh, noi abbiamo giocato molto proprio su questo tema, no? Della diversità, la disabilità come una esplorare potenzialità inedite. Abbiamo sentito storie bellissime su questo. Le Paralimpiadi forse hanno anche questo come messaggio, no? Nel senso che tutti abbiamo potenzialità nascoste e lì le vedi proprio esprimersi in modo fantastico. Assolutamente. Ripeto, è la dimostrazione di quanto una persona disabile, antepongo il concetto di persona a quello di disabilità, possa essere straordinariamente valida se messa nelle condizioni di poterla esprimere. E lo sport credo che sia sostanzialmente, lanci questo messaggio: noi mettiamo nelle condizioni di esprimersi i ragazzi e poi fanno qualcosa di straordinario. Vorrei ricordare una frase di Einstein, che se il calabrone sapesse che sta andando oltre tutte le leggi della fisica perché non può volare, probabilmente non volerebbe, ma il calabrone non lo sa, quindi vola. Ecco, noi vogliamo dimostrare che le persone disabili pensano di non poter far qualcosa, ma le vogliamo mettere nelle condizioni di poterlo fare e quindi volare. Luca, sono raccontate abbastanza, sono valorizzate nel giusto modo le Paralimpiadi? Beh, io devo dire sono orgoglioso del mio paese, perché già dall'edizione di Londra e quest'anno con Rio si conferma la partnership con la RAI in questo caso. Devo dire bontà di che si è innescato un meccanismo che ha portato i principali network televisivi a coprire i nostri eventi nelle Paralimpiadi in passato, Sky, RAI, insomma tanti si sono avvicinati, ma con Londra e con Rio abbiamo l'esplosione, perché Londra la RAI si confermò il secondo network televisivo al mondo dopo Channel 4 per ore di diretta coperte, e con Rio credo che non solo rinnoveremo questa straordinaria copertura, ma rilanceremo. Quindi io sono assolutamente soddisfatto. Certo, con Rio paghiamo il fuso orario, questo sì, ma insomma vale per noi come vale per gli olimpici. Poi ci saranno ovviamente in orari più umani per i nostri cittadini anche i resoconti, però insomma devo dire sono soddisfatto. Io giocavo a basket discretamente, una volta ho provato a fare una partita con una squadra in sedia a rotelle ed è stato complicatissimo, ero sempre per terra, cadevo, insomma non riuscivo a fare tutte queste cose insieme, ero io lì il vero disabile. Tra le tante discipline dei giochi paralimpici ce n'è una che ti sorprende particolarmente? Ma guarda, le vecchie discipline, tra virgolette, quelle che si sono per prime affacciate nella storia dei giochi paralimpici, ovviamente non ci sorprendono più, però via via se ne sono subentrate delle altre. Noi quest'anno per la prima volta come delegazione italiana siamo presenti anche nella canoa, nella pesistica, insomma nel triathlon. Devo dire che le discipline non mi sorprendono più, mi sorprendono le prestazioni degli atleti nelle discipline, mi sorprendono dei risultati che hanno dello straordinario se valutati tecnicamente, mi sorprende il gesto tecnico. Ecco, tu hai provato a giocare basket in carrozzina, è sorprendente la precisione dei grandi tiratori da tre punti in tutte le nazionali di basket in carrozzina, tirando da seduti, e l'altezza del canestro è uguale a quella dei normodotati, quindi mi sorprende la prestazione, non la disciplina. Grazie davvero Luca Pancalli, e insomma bocca al lupo per i giochi di Rio, che siano dei grandi giochi per tutta la squadra italiana, assolutamente. Grazie, a presto. Arrivederci, grazie. Non batter la fiaccola, curiosità a 5 cerchi. Il clima molto caldo che ha investito Pechino nelle Olimpiadi del 2008 ha creato notevoli problemi sullo svolgimento di alcune gare. In particolare c'è stata un'infestazione di alghe che ha colpito Qingdao, la città costiera scelta come sede per le gare di vela. 4.000 persone convocate in fretta e furia sono riuscite a raccogliere all'ultimo minuto circa 150.000 tonnellate di alghe. Mentre quando qualche giorno dopo Pechino è stata invasa improvvisamente da una quantità spaventosa di cavallette, un esercito di 33.000 persone è stato mobilitato con 200 tonnellate di pesticidi, 100.000 vaporizzatori e 4 aeroplani, riuscendo così ad allontanare le terribili locuste e a consentire lo svolgimento regolare delle Olimpiadi. Parlando di giochi paralimpici, spesso vengono citate le protesi, le attrezzature. Telmo, entriamo nel mondo della natura, anche lì ci sono le protesi? Sì, entriamo nel mondo della natura perché anche gli animali usano le protesi quando non riescono a fare qualcosa, e non soltanto gli animali simili a noi, le scimmie, lo sai, gli scimpanzé usano una grande quantità di strumenti per sopperire a una loro incapacità e imparano a farlo, quindi capiscono che se devono per esempio raggiungere un oggetto ambito e non possono farlo con le mani, quindi non sono capaci, trovano uno strumento per farlo, ma anche gli uccelli lo fanno, un fringuello delle Galapagos famose, quelli studiati da Darwin, ha imparato a mettersi nel becco ecco, un bastoncino per tirare fuori dai cactus certi particolari insetti. Quindi anche gli animali usano le protesi, così facendo dimostrano di essere plastici, perché poi il segreto di tutte queste storie è la plasticità, che vuol dire, che è una scoperta recente, noi sappiamo che siamo molto più plastici di quanto non si pensasse, vuol dire che il nostro cervello, per esempio, se una parte sua non funziona più, ha degli strumenti, delle modalità per sopperire utilizzando altre parti, quindi è molto flessibile, una parte difettosa compensa lo squilibrio e si riorganizza. La cosa straordinaria che abbiamo imparato anche dalle storie oggi è che anche il cervello e il corpo insieme riescono ad essere plastici, cioè tu non hai più una parte del tuo corpo, ma riesci con altre parti del corpo a fare quello che non avresti mai immaginato di poter fare. Le Olimpiadi, tra l'altro, sono piene di storie così. La più bella di tutte è quella di un sergente ungherese, si chiamava Károly Takács, era un grandissimo tiratore. Nel 38 gli scoppia una granata difettosa per le mani, perde la mano destra e lui tirava con la destra. Beh, cosa ha fatto? Si è riorganizzato, ha spostato tutto dalla destra alla sinistra, allenamenti durissimi, in 6 mesi si è ripreparato, si è presentato alle Olimpiadi di Londra del 48 e al poligono ha vinto la medaglia d'oro tirando di sinistro, benché avesse vinto tutte le sue gare precedenti tirando di destro. Questo è possibile perché abbiamo delle potenzialità veramente nascoste, inaspettate. Queste sì che sono abilità diverse. Adesso invece è il momento della scienza, la scienza portata da Andrea Vico. Scienziati, esperimenti a 5 cerchi. Divulgatore scientifico dell'associazione ToScience, ToScience.it, il sito per conoscere tutte le attività proposte. Andrea Vico ci sta accompagnando, facendoci scoprire la scienza che c'è dietro alle Olimpiadi. Ciao Andrea. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Telmo. Ciao, benvenuto. Siamo pronti? In quale ambito ci porti oggi? Ma fino adesso stiamo arrivando alla fine di questa carrellata, abbiamo parlato di tecnologie, ovviamente figlie di ricerca scientifica, che in qualche modo l'uomo, l'atleta, usa a seconda dei vari tipi di sport. Adesso invece vorrei parlare dell'uomo, che è esso stesso uno strumento altamente scientifico, e quindi parlare delle arti marziali, specialmente quelle che non usano delle armi, degli strumenti, ma semplicemente il proprio corpo. Quindi tutte le armi, come le arti marziali come il judo, il karate, che fondamentalmente si fanno a mani nude, ovviamente con un kimono, ma che non ha non ha nessuna funzione nel gesto atletico, e che invece rileggono o leggono il corpo come insieme di leve, insieme di muscoli, e l'obiettivo è quello di utilizzare in maniera sapiente l'energia, la potenza, la struttura meccanica che il corpo racchiude in se stesso per ottenere una prestazione. Quindi noi abbiamo da un lato lo scheletro, che è un insieme di leve, abbiamo oltre 200 ossa e alcune molto insospettabili, fin quando non ti fai male non sapevi di avere quell'ossicino lì, l'insieme di queste leve possono diventare un amplificatore di energia e quindi permettere a un essere umano di ottenere cose insospettabili. Dall'altra abbiamo i muscoli, che sono dei produttori di energia, che hanno la capacità di produrre un lavoro, ottenere un obiettivo, che vanno governati e soprattutto governati con una capacità più fine, più sottile di percepirne le potenzialità. E anche qui c'è da un lato l'origine di queste arti marziali molto antiche in Oriente, dove non c'era una consapevolezza che può avere la scienza di oggi, dove la fisica ha il linguaggio delle formule che descrive tutto quanto. C'era un approccio empirico, ma molto molto acuto, che ha permesso di sviluppare tutta una serie di tecniche e far ottenere a quelli che all'epoca erano guerrieri, anche qui torniamo un po' all'origine delle Olimpiadi e anche alla nascita nella Grecia antica, ottenere dei risultati oltre, quindi rendere delle persone dei superuomini. E oggi invece che noi possiamo monitorare, osservare qualsiasi gesto grazie a dei sensori, ci rendiamo conto che ci avevano visto giusto, e quindi tutta una serie di discipline, di tecniche sono scientificamente provate e soprattutto possono essere utilizzate anche in altri sport. Per esempio avere un gesto fine per il tiratore con l'arco piuttosto che un gesto di potenza e di precisione per il tennista, il modo in cui alcuni atleti si allenano di fatto deriva dalla sapienza delle arti marziali. Anche qui ovviamente con sensori, con monitoraggi molto moderni che ti permettono di andare a vedere al millimetro che movimento fa il tuo braccio o la tua gamba e che tipo di energia sviluppa il tuo muscolo, che tipo di concentrazione hai o di rilassatezza hai nel tuo muscolo e quindi anche nella parte di trasmissione elettrica di un impulso che è poi il preludio a un gesto, e quindi riuscire a capire come perfezionare un gesto e ovviamente ottenere la medaglia d'oro tanto agognata. E certo, qui è la fisica, la matematica e la chimica tutte al servizio dello sport. Grazie davvero ad Andrea Vico, twoscience.it, per conoscere, ve lo ripeto, tutte le attività dell'associazione. Alla prossima puntata, Andrea, ciao. Ciao, ciao, a presto. Adesso ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua con Terra in Vista. Terra in Vista. Terra in Vista, eccoci qua. Disabilità, la parola di oggi. È arrivato il momento della terza domanda. Ascoltiamola insieme. Una vittoria di un disabile vale più o di meno? Torniamo lì, no? Abbiamo detto che ci sono i giochi paralimpici, saranno a settembre, sono giochi non minori ma diversi, e per un atleta, insomma, vincere quella medaglia ha lo stesso valore di un atleta normodotato? Beh, per capire tutto ciò abbiamo invitato una campionessa, andrà per la prima volta alle Paralimpiadi ma con tanta speranza, tanto entusiasmo e tanta voglia, è giovanissima, è una schermitrice, diamo il benvenuto a Bebe Vio. Ciao Bebe. Ciao, ciao. Allora, sei pronta? Cioè, la parola Olimpiadi cosa scatena in intanto vengono i brividi assurdi anche per me. Io ho iniziato a contare i giorni che mancavano da quando ne mancavano il 500. In realtà io ancora non ero qualificata, quindi ci speravo tantissimo. Adesso sono ufficialmente qualificata il 19 settembre dell'altro anno e quindi adesso è tutto un allenarsi per, insomma, a riuscire ad arrivarci. Ti vengono i brividi ogni volta che lo senti, è un'ansia, ma è un'ansia positivissima. Allora, Bebe, tu hai iniziato la scherma da bambina, avevi 5 anni e mezzo, sì, poi esatto. A 11 anni, per colpa di una meningite fulminante, ti sono stati amputati avambracci e gambe, però hai ripreso comunque ad allenarti, perché quella era la tua passione. Esatto, esatto. Io facevo scherma in piedi quando ero piccola e ho fatto 5 anni di scherma in piedi e poi, anzi 6, poi ho avuto la malattia appunto a 11 anni e io volevo riniziare a fare sport in generale, volevo tornare alla mia vita normale che per me era in palestra e scherma. E quindi ho ripreso scherma in carrozzina, ma alla fine la scherma è sempre la scherma. E poi comunque ho scoperto, avendo fatto diciamo 6 anni in piedi e 7 in carrozzina, che in realtà mi piace molto di più in carrozzina rispetto a quella in piedi. Ah sì? Come mai? Sì, è tutto diverso, cioè è molto simile ma completamente diverso in un certo senso, perché comunque tu sei lì in pedana, nella scherma in piedi tu hai una pedana lunga, puoi correre avanti e indietro, puoi decidere te i tuoi tempi, le tue cose. Quando sei in carrozzina le pedane sono ferme, sono bloccate, non puoi avere un secondo, una frazione di secondo in cui hai paura perché sei troppo vicino all'avversario, sei sempre a misura, si dice, e quindi rischi sempre tantissimo e non puoi perderti mezzo secondo, che se no sei perso, sei paura, hai già perso. Bebe, sei legata a questa carrozzina, cosa permette il regolamento? Allora, in pratica c'è una pedana per terra, simile a quella in piedi, solo che c'ha dei ganci per bloccare le due carrozzine. Ogni atleta arriva con la sua carrozzina, perché ogni carrozzina è fatta ovviamente su misura o in base alla disabilità dell'atleta. Arrivi, blocchi la carrozzina e quindi quella sta ferma. A quel punto dipende in base alle persone. Io ho le gambe bloccate, così riesco a muovermi meglio con gli addominali. Sì. Sono persone che hanno le gambe libere, chi di solito ha le gambe libere, che così si può impuntare con i piedi per terra per fare più presa, insomma. E quindi sei lì, è tutto addominali, avanti indietro, avanti indietro, avanti indietro, tantissime volte. Fatica, esatto. Soprattutto fatica. Bebe, senti, adesso hai descritto questa cosa molto particolare, che tu hai fatto il confronto nel primo modo, poi nel secondo modo preferisci il secondo, quindi È un cambiamento di punto di vista, no? Il tuo, che è molto sorprendente. È un cambiamento, secondo me, di come ti poni te in pedana, perché se sei in piedi puoi decidere te, puoi riprendere l'assalto, puoi fare tutto quello che vuoi. Se sei in carrozzina non hai tempo di fare niente e quindi se sei pronto, carico mentalmente, vinci. Se invece non hai quel momento, un attimo di defiance, hai già perso. Bebe, siamo partiti da una domanda molto diretta di un bambino. La vittoria di un disabile vale di più o di meno uguale della vittoria di un atleta normodotato, secondo te? Allora, all'inizio ti avrei detto uguale. Sì. Perché comunque lo sport è lo sport, non vuol dire che sei in carrozzina in piedi, ci tieni di più o ci tieni di meno. Comunque quello che fai lo fai perché ti piace, perché ti diverte, alla fine nessuno fa sport perché è obbligato a farlo, per insomma solo lavoro. Se una persona fa sport appunto come lavoro è perché proprio gli piace, e lo sport lo fai bene finché ti piace tanto e ti diverti a farlo. Quindi nel momento in cui prendi una medaglia e riesci a capire quanto ne è valsa la pena di tutto il lavoro che hai fatto. Mm-hmm. E diciamo che adesso sto scoprendo che secondo me forse vale un pochettino di più, perché comunque ti dico, il mio tipo di scherma devo fare 3 volte più fatica degli altri, perché appunto mancando tanti pezzi devo insomma metterci di più tutto, insomma. Però comunque una medaglia è una medaglia, che sia anche di una quella di un'Olimpiade o che sia la medaglia di una partitella con gli amici, insomma, nel momento in cui c'è l'agonismo, in cui ti diverti a fare quello che ti piace e vinci perché volevi proprio vincere a tutti i costi, è sempre comunque una vittoria. Mm-hmm. E tra l'altro Bebe ha appena fatto anche la maturità quest'anno, avevi fatto una tesina proprio su un logo, vero? Sui giochi paralimpici. Io faccio arti grafiche e comunicazione. E la tesina, e quindi i primi 15 minuti dell'orale, in realtà neanche troppo, e li ho fatti ho fatto la grafica, quindi ho fatto i loghi per le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Roma nel 2024. Mm-hmm. E riesci a farci vedere questo logo via radio? Com'è? Ok, allora, in pratica olimpico e paralimpico è molto simile. Rappresenta il Colosseo, ovviamente. Sì. E il Colosseo è visto non solo come rappresentazione di Roma, perché comunque Roma era il luogo dove si scontravano le persone più valorose, dove la vittoria era la vittoria, insomma, anche come cosa di vita in pratica. E poi l'ho visto non solo come il Colosseo, appunto, come Roma, ma il Colosseo come rappresentazione dello sport in generale. E lo sport è fatto dalle due facce, insomma, dello sport, che sono quella olimpica e quella paralimpica. E quindi poi ho preso il Colosseo, l'ho diviso in due parti, cioè a sinistra quella olimpica, a destra quella paralimpica. Le ho colorate con delle fasce colorate che riprendono i colori dei cerchi olimpici, che come sapete rappresentano i 5 continenti, quindi che sono il giallo, il verde, il rosso, il blu e il nero. E mentre nella parte paralimpica ho ripreso i colori della GITOS, che sono, non sono i continenti, sono la versione, diciamo, paralimpica dei loghi olimpici. Uh-huh. E rappresentano l'anima, il corpo e la mente, che è tipo l'essere dell'uomo sportivo. E quindi che sono invece i colori sono rosso, verde e blu. Certo. E quindi sono due loghi diversi, sono due loghi separati, ma in ogni logo si vede che funziona bene da solo, ma che comunque manca una parte, perché lo sport in generale è olimpico e paralimpico. Sì, esatto. Insomma, rappresentare al meglio il tutto. Esatto, un ottimo messaggio. E Bebe, l'ultima volta che ci siamo visti avevi un po' di problemi a usare lo smartphone con la protesi, quindi dovevi usare il naso. Hai risolto il problema? No, continuo. E se non c'è estate, stacco la protesi e uso il braccio. Che è molto più semplice, vero? Esatto, easy. Bebe, grazie davvero per essere stato con noi e in bocca al lupo, insomma, che siano dei giochi paralimpici pieni di soddisfazione e anche di divertimento, che credo sia grazie un elemento mille. Fondamentale. Tanto è quello, esatto. Ciao Bebe. Grazie. In bocca al lupo. Ciao. Grazie. E queste sono le cose che abbiamo imparato nella puntata di oggi. Abbiamo imparato che la disabilità è scoprire potenzialità nascoste che nemmeno immaginavi. Abbiamo scoperto che l'handicap è nella mente. In realtà siamo tutti diversi. E poi abbiamo imparato che se pensi di fidanzarti con una lepre, ti conviene imparare il pugilato. E abbiamo imparato che la scherma da in piedi è bella, ma la scherma da seduti è ancora più bella. Ma soprattutto abbiamo imparato che Olimpiadi e Paralimpiadi sono due facce dello stesso sport. Questa è Terra in Vista, le Olimpiadi spiegate a mio figlio, un programma scritto con Paola Manduca, in redazione Massimiliano Lollis, oggi alla parte tecnica Peter Bescapè. Radio24.it per poter riascoltare tutte le puntate e scaricare i contributi extra. La prossima settimana l'ultima puntata. Beh, ci siamo divertiti anche oggi, Telmo. Sì, e la prossima sarà Vittoria. Questa è Terra in Vista, le Olimpiadi spiegate a mio figlio. Filastrocca dei diversi. Tu non sei come me. Tu sei diverso. Ma non sentirti perso. Anch'io sono diverso. Siamo in due. Se metto le mie mani con le tue, certe cose so fare io ed altre tu. E messi insieme sappiamo far di più. Tu non sei come me, son fortunato. Davvero, ti son grato, perché non siamo uguali. Vuol dire che tutte e due siamo speciali.